un santo di tutti, Pio X, Don Beppi come lo chiamavano quando era sacerdote e cappellano, Giuseppe Sarto, pontefice dal 1903 al 1914. Nel nostro appuntamento settimanale a lui dedicato, in quest'anno centenario che culminerà con l'agosto del 2014, torniamo ancora a far sentire alcune voci dal convegno internazionale di studi svoltosi tra Venezia e Treviso il 24 e 25 ottobre. Dalla settimana prossima in questo spazio avremo le voci di alcuni studenti e insegnanti che stanno partecipando al progetto Aurora, una delle iniziative volute dal Comitato per il Centenario, un progetto che riguarda specificamente gli studenti di ogni ordine e grado. Torniamo al convegno, dicevamo, c'è un aspetto storico importante della figura di Pio X, chi ha dei anche ricordi frammentari degli studi di storia dei primi anni del Novecento ricorderà una parola che è così un po' complicata da capire, e abbiamo cercato di farcela spiegare da uno degli esperti intervenuti appunto al convegno di pochi giorni fa. Professor Maurilio Guasco, Università del Piemonte Orientale. Modernismo è un termine spesso associato alla storia di Papa Pio X e di quel periodo. Proviamo a spiegarlo in modo divulgativo. Certo. Ci sono state due definizioni di modernismo. Uno parte dall'enciclica Pascendi. La Pascendi elenca una serie di errori sostenuti da un certo tipo di persona, biblico, teologico, politico, e dice il modernismo, i modernisti sono coloro che sostengono questo. È un fenomeno culturale di inizio Novecento che mette in causa una serie di categorie di carattere biblico, teologico e politico, le mette in causa, e sono le categorie della tradizione della Chiesa, e questo solleva grandi problemi. Aggiungo subito che in alcuni casi viene esasperato questo finendo per parlare male di tutte le posizioni della Chiesa, in altri casi è semplicemente un passo avanti nella riflessione. La seconda definizione di modernismo, che sposo un po' io, a partire dagli anni 60 si dice: facendo così si studia solo un fenomeno, l'eresia, quelli che hanno sbagliato. Forse bisogna più che parlare di modernismo, bisogna parlare di eresia modernista o di momento del modernismo, che ti costringe a studiare tutto un contesto culturale, biblico, teologico, un contesto generale, e dentro quel contesto isolare alcuni aspetti forse molto discutibili. Quindi da un lato si può partire dall'enciclica Pascendi 1907 e dire il modernismo è una serie di errori, dall'altro si può dire, ed è il lavoro dello storico, studiamo un contesto generale dove all'interno delle stesse dottrine cosiddetta modernista ci sono elementi di grande interesse, vedi Lagrange che propone un modello di ricerca diverso e che corre dei rischi di essere condannato, e ci sono esasperazioni come in tutti i periodi storici. A partire da un dato magari positivo si va a un elemento estremizzato, per cui la modernità, che è un fenomeno normale, diventa modernismo, cioè diventa, si rischia di vederne soltanto gli aspetti deleteri, che ci sono, ma studiando fuori dal suo contesto si finisce di dimenticare aspetti anche positivi della stessa dottrina. Possiamo dire, semplificando, che Pio X, guidando la barca di Pietro, tentò di tenere la barra dritta? Questo è la mia tesi, poi ciascuno dica quello che vuole. Pio X è terrorizzato dal rischio che questi dentro la Chiesa producono guasti enormi, quindi li combatte, come è logico. Ciò che si mette un po' in discussione, ma ormai sono documenti tutti pubblicati, è che in certi momenti esaspera questo modello di combattimento, cioè usa strumenti, o suoi collaboratori di cui lui è a conoscenza, usano strumenti che oggi consideriamo un pochino discutibili. Ma questo non lo dico io, i documenti usciti in questi ultimi anni dimostrano che sapeva benissimo cosa stava succedendo, che qualche volta ha frenato lo zelo eccessivo di suoi collaboratori, ma qualche volta ha provato per difendere la Chiesa metodi che oggi ci lasciano un po' perplessi. Ecco, questo non toglie nulla alla città di Pio X, però non credo che nascondere alcuni aspetti di verità sia fare del bene a un personaggio. E con Don Maurilio Guasco abbiamo fatto un piccolo ripasso di storia. Allora andiamo invece ad alcuni episodi sconosciuti che questo anno centenario e le ricerche stanno facendo emergere sull'opera e l'attività di San Pio X, appunti di suo pugno che spuntano proprio dagli archivi vaticani. Alejandro Mario Diegues dell'archivio segreto della Città del Vaticano. Dalle carte di Pio X, sono tantissime che lui ha scritto anche con la sua penna, emergono anche alcune curiosità, alcuni aspetti che erano sconosciuti, ad esempio il suo rapporto con gli emigrati italiani. Sì, dalle carte che abbiamo riordinato emerge soprattutto questa grande attenzione di Pio X verso l'emigrazione italiana all'estero. È riflessa sia nei carteggi frequenti con Madre Cabrini, fondatrice delle missionarie, appunto, soprattutto che operavano negli Stati Uniti, ha aiutato sia economicamente che moralmente un sacerdote veneto, Gian Giacomo Coccolo, che aveva fondato una società di missionari per l'emigrazione che accompagnava gli emigranti italiani nella traversia transoceanica quando andavano anche negli Stati Uniti, e ha soprattutto seguito, sono state trovate molti rapporti sulla situazione degli emigranti in Canada, a Ginevra, e ha anche contribuito con forti sussidi alla costruzione di una chiesa cattolica a Ginevra per gli emigranti non solo italiani ma anche francesi. E poi c'è un altro fondo importante che scopre il suo sostegno ai terremotati della Calabria. Sì, in particolare sono diversi fondi, oltre al sostegno per la ricostruzione delle chiese in Calabria, una cosa interessante da notare, una risposta a uno dei vescovi calabresi che premeva per avere un aiuto per la ricostruzione delle chiese, la prima risposta di Papa Sarto è stata: penseremo alle chiese quando avremo risolto il problema dei senza tetto e dei senza pane. Ma l'iniziativa che più colpisce è quella che lui ha avviato di assistenza agli orfani del terremoto. Quindi ha messo in piedi un'organizzazione che ha garantito a questi ragazzi un futuro e li ha praticamente portati a concludere gli studi, ad alcuni anche gli studi universitari, praticamente con un sostegno che è durato più di 10 anni. Non solo la somma stanziata, 1 milione di lire del tempo, è servita anche poi a garantire la stessa assistenza agli orfani del terremoto di Avezzano e anche agli orfani dell'epidemia di febbre spagnola del 1918. Il professor Diegues, che è, dicendo una battuta, il secondo argentino più famoso in Vaticano dopo Papa Francesco, avremo modo, credo, di sentirlo ancora nel corso di quest'anno centenario, perché lui sta scovando proprio dagli archivi vaticani queste curiosità, questi documenti spesso inediti e che fanno emergere la figura di un pontefice molto vicino anche alle necessità della gente, anche della cronaca, insomma, come abbiamo sentito, la cronaca e i fatti dell'epoca, della sua epoca. Dalla settimana prossima, in questo spazio della rubrica dedicata a Pio X, cominceremo a conoscere i protagonisti del progetto Aurora, che coinvolge molte scuole del territorio.